Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova. Attenzione, binario 10, cambio. Attenzione, canale 10, l'isola della Sardegna fa chiamate, si sintonizza l'ascolto, brecco brecco. Attenzione, binario 10. Ola, ola. Poi sei in chiesa. Ola, buonasera. Non ti capisco. Lo direi, non ti comprendo. Come non mi comprendi? Ola, ola. Aspetta che lo abbassiamo un po'. Vediamo un pochino. Guarda, 1, 2, 3, 2, 3. Prova, guarda, così è fenomenale. Sarà fenomenale per te. Non c'hai troppa ripetizione, non capisco cosa stai dicendo, si accavallano le parole. Boh, io qua c'è l'ascolta, si capisce tutto. Boh. Allora mi sta falsificando. Guarda, così capisci. Beh, diciamo le parole all'ultimo. Mi capisci, capisci, capisci. Allora dice pisci, pisci, pisci. Quelle devi togliere, devi lasciare l'eco senza queste parole ripetute, no? Non si diannuda, non è bello. Guarda, guarda, così va bene, va bene. L'uomo già si piace a te, si sente, ripete le parole, mi capite? Ma no, non lo ripeto da lui, non so se è un'altra radio questa. È la stessa radio, radio. Guarda, 1, 2, 3, ola, così non le ripete, to. Così c'è la... appena appena ne ha così, va bene così. Così se sei riuscito a dire la parola ripetute, ancora, non l'ho mai sentita. Magari perché lo stavo pulendo, capito? Devo stringere anche il microfono perché secondo come lo muovi c'è quelle vittine che una si sta mollando e lo devo stringere, me ne sono accorto adesso e non esce di radio a volte. Adesso come l'ho stretta appena appena a mano, un po' sta uscendo, dai. Già va bene. Questo è il cobra, no? Questo è il magno. Infatti già mi sembrava qualcosa di diverso. Questo qua è il magno. Ma già va bene lo stesso il magno, già va a gonfio vera anche questo. No, il bip è diverso. Non riesce bene anche questo, non c'è problema. Stanco morto, guarda una giussa oggi, direi c'è spugliatore, ma su sabato, di sugar. Quindi non ha già fatto un ettaro. E anche vicino a casa c'erano le squadre che stavano pulendo. Ma è cresciuta a poco tempo, vicino a casa Baria, una foresta Baria, è cresciuta a poco tempo. Io beh, la strada non mi interessa, no, qua no, sono già passati quest'anno in anticipo, ho già pulito tutta la strada, con i trattori, figurati tu, non ci prego manco a guardare lì, ma io dentro nella strada mia, cazzo di guida di una giussa oggi, alle 9, boh, sono uscito, sono andato a prendere un caffè, ci ho rientrato, boh, 9 e mezzo, cazzo fino a luna. Ma se io sarei sbagliato, sono venuto a pezzi. Caffè, vabbè. E ogni tanto anche io mi assillo a casa a fare lavori. Adesso stamattina mi sono assillato perché me ne è sceso uno sportello della... sotto l'avello, dai. Si è staccato, cazzo, praticamente era proprio rovinato, non si poteva fare niente. Allora ho ideato una cosa, ho passato una vite passante, un bullone passante con una vite, un dadino da 10. E sta giusto, giusto, giusto, non tocca nemmeno, perché poi da sull'altro sportello dove c'è la bomba, non tocca nemmeno, è giusto, giusto, l'ha fissato perfettamente. Sì, ma non vuoi già battere la salutina, quanti anni ce l'hai? Ce l'ho un po', dai, ce l'ho, ma penso 26 anni. Sì, te ne è cambiata, quando ne va a pizzi. No, io quelli, mobili non ho problemi, sono tutti muffi. Anche se mi metto a fare queste cose, va bene, ma cazzo. Ma mettete a tagliare erba, allora di punta finisce la Gunner di Nishpur, c'è un 42 pesantissimo, grande, enorme, taglia i rubi, cazzo, sembra un coltello. Ma non usi, per i rubi non usi i cosi, la lenza? La lenza? Cosa usi già? Io c'ho quella che mi dà un amico che lavora in un posto, non finisco dove, perché da 6 mm, la prendono sino a 4 mm, figurati, questa da 6, da 6 mm, io c'ho il mandrino da 8, fino a 8, l'ho comprato la sanna, ai punti, quando le metti quella cordicella, questo è pur certo che non ci sono rotti che tengano, il fuori che non si taglia mai, si consuma di quando lavora, tutto si consuma, arriva anche alla fine, non ce n'è più, però non esce, non si rompe, capite? Allora ti fermi, la rimetti stamattina, quanto ne avrò fatto non lo so neanche, perché è pazzesco, mi sono spaventato di quanto ne ho fatto, però l'avrò cambiata due o tre volte. Ha giocato pure i bieni, ha fatto il bronzo, poi si è abbattuto io consumando. Se c'è erba a tagliare, normale, ma consumano molto quelle, quel tagliare? No, c'è spugliatore, no, consuma più raserba, c'è anche raserba, però lo faccio domani, quello. Domani non ho più voglia, non è più bugana. È una settimana cresciuta, già la seconda volta che la taglio fuori. Dentro non ho problemi, dentro c'ho raserva, lo passo ogni 2-3 giorni, ma è un divertimento quello, è una macchina, ti appoggi, cammina da sola. Una raserva di buoni grazie, io non aggiungo più grazie, infatti fra un po' mi toccherà chiamare, pagare e farmela tagliare. È poco pesante quella cosa. Chi ama che sei comparato gli attrezzi? Gli attrezzi miei, fa un operaio, non mi chiamano. Fa un operaio ore. Con la presa pura mia, io c'ho tutto, non manca nulla, a me manca solo un trattore. Per il resto c'è un cammino pieno di roba, raserva, cespugliatori, faccetto, lastrini, cariole, pale, forbici per portare, rasasiette, c'ho tutto, comprato tutto l'anno scorso, tutto, non manca nulla. Guarda che ho trovato di quei microinterruttori, uno te l'ha trovato, quando vuoi passare lo prendi e così te lo metti nel circuito stampato e li metti i cavettini. E uno l'ho eliminato già, sta andando diretto perché non mi alimentava la preamplificazione, allora l'ho tolto e si consumano i carboncini, però Fusiano non ne aveva così piccolini, ce l'aveva più grandi, adesso me lo porto quello lì lunedì, allora se lo trovo a GBC a Fusaro, o da qualche parte, per Daniele, ma vabbè, così gli rimetto tutti nuovi questi microinterruttori che si consumano, con gli anni si consumano, capite? Avanti già. E di quale microfono? 2060. E non si trovano originali? Originali si trovano, se non guardi nel vivo si trova originale. Sono un dei semplici microinterruttori, quello c'è sotto il microfono che apre e chiude la preamplificazione, capito? A volte si inchiodano. Ma tu quello lì lo tocchi oppure lo lasci sempre fermo? No, io rimane sempre, ce l'ho sempre in. Sempre lì, ma quando si consuma, capito, non dà il consenso, e allora devi sostituire. Per non sostituire il microfono a Natalino dell'altro, il mio, figurati, devo trovare il mio, perché quello che di Valerio praticamente funzionava una, due, tre volte e poi non amplificava più. Allora mi sono dato le palle, stamattina sono andato, ho preso quello di Valerio e adesso lo faccio riparare. Dal mio carissimo amico, lo faccio sostituire, che non ci verrà a saldare lì nel circuito stampato. E gli ho dato il mio, che praticamente non lo muovo mai io quello, capito? Invece loro sicuramente lo muovevano un po' senza, un po' pochino, poi senza un pochino e non in questo modo. Cava, cava. Io staccato da un... Devo dove era? Tipo microfono, una cosa del genere. L'ho trovato e l'ho staccato. Dovrebbe essere quello che mi ricordo io del MC60 che c'è sopra, quel microintroduttore che fai avanti e indietro, piccolino. Quello di sopra, quello di sopra già li vedo, quello di sopra già lo vedo, quello di sotto del coperchio di sotto, quello di sopra non c'è niente, quello del tappeto di impedenza, quelli non si rompono mai, quelli non si rompono mai. Si rompono, si consumano, capito? Materiali consumano, interruttore. Il mio è nuovo perché ti ripeto, io non li tocco mai, io lascio sempre un'amplificazione, boh. Ma questo microfono che ho dato a Natale non era il mio. Sicuramente era consumato. Ma visto ieri come facevo, un po' amplificavo, un po' no. Se ho rotto le palle gli ho dato il mio, non te muovo lo stesso. Hai visto come esce una bomba, esce, quello è a posto perché io non li tocco mai. Ho capito. Vabbè, quando ci vediamo, fai la foto di quel micro, di quell'affare lì, poi me la mandi su WhatsApp, così lo voglio vedere un secondo, se come quello che ho staccato io dovrebbe essere uguale. Così almeno non c'è problema, già ne ho pizzi, non è lo posso trovare, non è che non lo possa trovare, anzi a voglia. Ciao Claudio. Ciao Giulio, buonasera. Sì, ma allora già si trovano, solo il fusarone ha così piccolino, capito? No, ma funziona lo stesso, il microfono non funziona, tolto. E io sono andato in filo diretto, i due fili tra Salvero alla rialzazione del circuito, capito? È diretto adesso, però già funziona lo stesso. Lui appena lo trovo glielo metto, non c'è problema. Avanti Giulio, buonasera. Ok, ciao Cla, ciao Antonello. Sì, beh, sono stato a Toulouse, sempre amplificato, no? Ti fai un ponticello nell'interruttore e non avrai mai più il problema che fa contatto o non fa contatto. Tanto tu lo usi sempre amplificato. Ti fai un ponticello nell'interruttore stesso, lasciando quello com'è, fa contatto a contatto, e dunque non avrai mai più questo problema qua del carboncino, eccetera. Non so se mi sono spiegato o qua. Sì, così ho fatto, infatti. L'ho bypassato lì. L'ho bypassato e adesso è diretta l'amplificazione. Appunto, così risolvi il problema, non hai più. Tanto usare sempre amplificato lo usi. Quando poi proprio decidi che non lo vuoi usare, ci vuole poco, togli il ponticello e ritorna come prima. Però qui si è considerato che intanto quello è un interruttore che non tocchi mai. Basta fare un ponticello e tu sei a posto. Non avrai mai più problemi, almeno per quanto riguarda quell'interruttore lì. Perché alle volte, io me ne sono anche accorto, anche nel mio ha fatto qualche problemino, l'ho dato un suo in giugno, ho fatto un paio di scatti e l'ho rimesso in ordine. Però per dire, no, mi si è considerato che lo usi sempre in in, basta fare un ponticello e non avrai più modo di toccarlo nella maniera più assoluta. Ciao Giulio! Ciao! Sì, non ho fatto così, perché quello che ho dato a Natalino non era il mio, capito? Però visto che si è altro che le stava difettando, non voglio fare il dottore di balle, allora stamattina sono andato, gli ho dato il mio, che è sempre, non lo tocco mai quello lì, invece quello che mi hanno dato sicuramente l'hanno consumato abbassando e sollevando la amplificazione. Sì, ho fatto proprio così, ho fatto un ponticello, ho bypassato, adesso è diretto, infatti sta funzionando alla grande, non c'è problema, l'ho messo il tappo, non si vede niente, però appena lo trovo glielo metto nuovo, avanti Gianni. Venga dai, io vi saluto, dai, che sto scendendo un attimino dalla macchina, ci sentiamo dopo, buona serata a tutti, dai. penso che fra una mezz'oretta rientro. Ciao Gianni, scusa, dopo quasi non sapevo che c'eri anche tu, scusa. Non c'è problema, ci sentiamo, dai. Con la continuazione, raga. Ciao Gianni, ci sentiamo. Stavi bene con quelle tipo. Claudio, la modulazione è cambiata del microfono, guarda un po'. Fate la moto che è passata. Station non va bene, ma sempre con quel microfono station. Sì, ma gli ho cambiato la capsula però. Capito? Sono con i toni alti adesso. Quando parlo c'è il V-meter che sale a 2 mezzo, quasi allo zero, figurati adesso. E c'ho i toni alti. Potrei avere i toni bassi. La capsula c'era lì, Antonio, quello non l'ho mai toccato, non lo so io, non l'ho toccato. Che capsula c'era originale? No, una capsula di colore verde era. La capsula dovrei averla salvata io, perché c'avevo solo io queste capsule verde, sono quelle come si chiama, dei videocitofoni. Le avevo distribuito un sacco di gente, capito? Quello io l'ho comprato. Così. No, sta uscendo benissimo, Antonio. Sta uscendo benissimo. C'è un bel abbinamento, ho 140 con quel microfono, con il mio DP5, va bene. Poi te l'ho detto, va bene perché c'è l'alimentazione diretta, quello me l'ha fatto Fabrizio, e quindi è fatto a regolare, se no fai un casino. Va bene, va bene. Ottima modulazione, si è cambiata, c'è di tonalità acuta, è bella la modulazione. Avanti, Giulio. Ok, sì, confermo, va benissimo Antonio, non c'è problema. Io sto guardando la tappa, ancora 13 km ancora per arrivare al traguardo, per cui c'è una fuga comunque. Vediamo un po' come cosa succede anche oggi. Deve essere oggi una bella tappa comunque. Ci sono questi attacchi, per cui va bene, così mi piace il ciclismo, non quando arrivano tutti insieme, partono tutti insieme e arrivano tutti insieme e poi se la giudicano più volata la tappa, così non mi piace proprio. Ma quando è come oggi, che ci sono gli attacchi da lontano, va bene, così io sono contento. Vai qua. Vabbè, no, io il ciclismo non lo seguo, da quando prendo un accidente, non lo seguo, però già mi piace, sono vedere queste cose. Adesso domani voglio vedere, domani alle 6 inizia la guerra, non alle 6, poi 1:30, sono no. Domani, mamma mia, domani il Cagliari sicuramente, poveraccio, ma comunque speriamo bene. Però cosa vuoi dire? Al momento la Salernitana è avvantaggiata e io penso che per il Cagliari sarà molto, ma molto difficile. Vabbè, per quanto riguarda il titolo del campione d'Italia, si sa, è il Milan che è avanti, purtroppo quell'errore, secondo me io attribuisco quell'errore di quando ha avuto il mal di schiena Handanovic, perché l'Inter avevano messo un rado la riserva, e proprio il giorno quello ha fatto un errore madornale e aveva perso la partita lì, pazienza, vuol dire che doveva andare così. Dai, comunque anche il Milan già se lo merita il campionato, no, non ci sono dubbi. Vai Antonio. Allora, speriamo bene che il Cagliari ci venga qualche miracolo come è successo con l'Italia adesso che l'hanno depescata, quindi speriamo bene. Ok, allora. Okay. Adesso sono andato del Mike Gain dell'apparecchio, come ti sembra? Anche io dell'apparecchio, perché cos'è a massimo, non ce l'hai sempre al massimo. No, avevo messo la C. Così è al massimo. Così è alla C. Come era una volta, ti ricordi? Forse 80? Sì, sotto la C, sì. Sì, anche io uso sotto la C 140. Adesso però sto andando col 430. Va bene anche se lo metti al massimo, Antonio, però si sente troppo la ventola. Capito? La ventola di quell'alimentatore, li fa sparire quell'alimentatore, da lì butta o per terra. Ma come fai a tenere un alimentatore così? che brutto lì sopra la scrivania, prova a ridare, ma non appartiene in terra, coprilo con uno straccio, mettilo dentro un secchio. Ah, già, si sei molato domani mattina, che te lo fai, l'uso nuovo, l'originale, di alimentatore, così almeno non c'è più quel casino della ventola, capito? Allora, così sono toni alti, e così sono toni bassi, a zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, non mi piace, vale tanto un cacciaro, metti i toni alti. Ah, ok, anche così va bene. Guarda un po', che a metà, di toni? Sì, già va bene, così, prova un giù di lontananza, vai giù. Così va bene, Antonio, non c'è problema. Va benissimo. Sai cos'è? Il problema è anche il microfono amplificato che raccoglie tutto. Io non so se ho qualche rumore sotto di ventola, perché c'è la ventola in funzione in questo momento, ma essendo con un microfono palmare normalissimo e poi con un watt appena di potenza, non so quanto possa arrivare il disturbo nella mia modulazione, non credo più di tanto. Vai qua. No, ci ho dato alimentatore, capito? Domani gli ho già messo puntini, di domani mattina devo provare a cambiare i fusibili, perché siamo bruciati, un po' di tempo fa, ma quello che non hanno fermo quasi. Quindi adesso domani lo provo e vediamo un pochettino l'alimentatore di 20 anni fa, dovrebbe riaccendere, speriamo bene, così almeno gli metto quello e il suo originale come alimentatore. Così ho fatto da come una volta. E quei due alimentatori cinesi, quello sto usando adesso, quelli li metto dentro una scatola metallica come ho fatto l'altro giorno in uno, che la vento non sentiva per niente. Anda bene, una cosa per volta sto facendo. Dopodiché adesso, una volta che ho fatto quello, comincia a sparire tutto dal tavolo. Lascia tanto di bianco, sì, devi fare pulizia, fatta bene, si sì, ubbi tutto, ti ho detto, roba ti serve, la metti dentro una cassetta, quello che devi usare lo lasci in vista, uno scaffaletto, lì sopra quella base ti vedi 140 microfono, un baracchino che usi con un altro microfono, uno strumento, basta, le cose essenziali, se no diventa un montinaggio da buchi. Non lo fai bene, lascia così, però non aumentare molto, perché altrimenti si sente un bel avvento, e magari quando lo fai sparire quell'alimentatore, te lo metti da qualche altra parte, allora puoi tirare un pochino più su, a me piace la modulazione bella, io sto usando il 60, e se la senti la ventola non lo so, ma la mia è a un metro e mezzo dalla radio, in un banchettino per terra, io ho fatto una base per terra, ho sempre avuto il legno, non si vede neanche l'alimentatore, io tiro su un interruttore, mi salva vita, si accende l'alimentatore, capito? Perché non conviene mai tenere l'alimentatore vicino alla radio. Avanti Giulio. Ok, in effetti così, l'alimentatore soprattutto quando c'è la ventola e con il microfono preamplificato è un piccolo fastidio, dai, comunque va bene lo stesso, non c'è problema. Comunque mi sono comprato un televisore nuovo, uno, perché ne ho 5 in tutto piazzati qua, però ne ho comprato uno 55 pollici di qua, un Sony favoloso, meraviglioso, bello, bello, bello, veramente, un'immagine straordinaria. E vabbè, comunque, cioè ce l'avevo un televisore grande, abbastanza grande, però questo adesso mi si è considerato che quello della sala lo trasporto giù nella tavernetta, lo trasporto e nella sala mi metto questo grande, 55 pollici, vai qua. Sì, beh, anche io ho 55, l'ho preso 6 mesi fa, neanche forse, non si mette la pomata, forse a gennaio o a febbraio. 55 c'è il 48, ma c'è un abisso c'è, io c'ho lo Smart Tech 55 pollici, Super HD, Smart TV, di tutto di più, computer, Android, fine, si vede anche di traverso, di fianco, di più, molto bello, molto grande, le immagini sono grandi, voi su HD in 4K al mio, se vedete anche film in 4K tenete chi dritto, se vede anche quello che c'hanno nel naso e nelle orecchie. Favoloso, è una salgubba baroncino, un cinema 55, favoloso per casa, perché lo vedi bene. Avanti Antonio. Va bene, se ne bisogna quello grande grande, anche quello scuro possono vedere. Si vede tutto, si vede, si vede, se si mette un coso, un DVD, pensato per dire, no. Se vedi che c'è il mare, si vede, sembra che sia in mezzo alla spiaggia, capito? Si vede benissimo, ma io ho qua solamente il, ho il 31 in cucina, dopodiché un 40 ce l'ho in camera da letto, sempre smart, su tutte e tre, poi un, già l'hai visto quello bianco, c'è una cameretta qui, tutte e tre c'è lo smart TV, c'ho. E quindi vedo il televisore bene, benissimo, non è agganciato in nessun posto, perché ma tanto parabola non mi usa, è inutile usare Sky quando non vendo, quindi a un certo punto se la mia Napoli lì, la questione della parabola. Sente? Tolto accesa, sentito Eia, eia, salutoni, ben sentito. Segnale 7, radio 5 da me. E a voi già va bene. Sono in compagnia di Claudio e Giulio, avanti Claudio. Mi sembra tottino dalla voce, ma a me mi arriva bassino. 3-4, mi senti Tino? Ok, ciao Tino. Sì, io già ti ascolto bene, no, non c'è problema, Santiago 7, la radio 5, va bene, no. Io non so se riesco a farmi ascoltare a te, visto considerato che sei in macchina, perché sto uscendo solamente con un baracchino da un watt e un microfono malissimo, per cui non lo so, ma forse sei in posizione favorevole verso di me. Vai ancora Tino. Tino, sentito lei a Giulio. Chicca, ma in che punto sei? Quasi non te ne aggredo, strano che non senti a Claudio, Claudio è aperto per lì, perlomeno. E qua si è arrivato a rendersi l'Alghero, Claudio. L'Alghero arrivò benissimo. In macchina a Cosio, a Carlo, l'accompagno sino a dentro l'aeroporto, non lo so. Ma lo dicevo basso io, lo sto sentendo basso. Arriva molto meglio Carlo dalla macchina. Lo sento molto basso. Eia, ciao. Dino, ci sentiamo dopo al limite. Quindi dovresti essere vicino all'aeroporto. Se ci sono, ci sono gli aerei, evidentemente ti stanno passando sopra. Avanti, Giulio. Ok, questo tuo passaggio non ho sentito quasi niente di quello che ha detto Tino. Sicuramente nemmeno lui sente me. Va bene così, dai. Comunque, Antonio 9 più 20 quasi mi stai levando. Claudio 9-10, va benissimo, la radio ultima per tutti e due, va bene, avanti Claudio. Sì, Antonello, più avanti, ti arriva molto meglio a te, Gaffa, qui adesso è Compador, era 9-10, anche qua adesso è 9-25, figurati, va bene, con benissima radio, ho preso l'ultimo microfono, tutto. Sì, ma deve essere problema suo, perché ti ripeto, io con Alghero non ho problemi da qua, Carlo, sai, accompagniamo un po' tutti, ma io in particolare lo accompagno sino a dentro l'aeroporto in macchina, e lui non c'è manco lineare in macchina, non c'è niente, arriva bene. No, ci sono le frecce tricolori oggi, Alghero, sai un casino che fai con questa giornata, bella, per carità, e chi si muove di casa. Assolutamente, vai Antonio. Io non le vedo qua le frecce tricolori passate, cioè vedo il pezzo di capocaccia io qua, non lo so se passano da quella parte, poi tutto il resto ce l'ho tappato dalle palazzine che ci sono da grattacielo, capito, di via Milano. Sicuramente, ma io lo vedo qua la zona di Cosio. Si vede, però non ho niente, sì, va bene, ok, capito Giulio. spettacolo veramente questo televisore. Io quando, perché ce l'ho, è partito, me lo guardo in quello da 48, ma tu, infatti, quando non ci sono programmi interessanti, che loro guardano nel salone, non c'è niente, c'è qualche partita, io me la guardo col 55, ma minchia, un abisso, completamente un abisso, cioè, e vabbè, anche quello che c'ho, l'altro 48 è Smart TV HD, ma non è SHD, è 4K, e c'è quello là in 4K, quindi è spettacolare. Avanti Giulio. Sì, infatti anche questo che ho preso io è così, 4K, Smart TV, ma è meraviglioso. Guarda che ho notato cosa che prima non riuscivo a notarlo, sì, vedevo bene, benissimo la partita, però adesso addirittura con questo vedo i ciuffi dell'erba dettagliatamente, ciuffo per ciuffo, per dire no, prima vedevo un prato e basta, ma adesso addirittura puoi vedere se c'è un piccolissimo sassolino per terra, un pezzo di carta, eccetera, vedi anche quello, è una cosa favolosa, veramente, ha una immagine, una fedeltà visiva straordinaria veramente, molto molto bello. Vabbè, 100 euro di sconto mi hanno fatto, perché è così, di più non te ne fanno, perché fanno il 20% fino a 100 euro, se vai oltre, cioè lo sconto è sempre il 20%, però ti calcolano solo 100 euro, perché se no vai a finire che poi ti tocca, che te lo alzano grazie il televisore. Comunque ho pagato intorno alle 700 e qualcosa, dai, siamo lì. Bene, bene. Che marca è il tuo qua? Mio, lo Smart Tech. Ok, no, io ho preso un Sony di marca. Mettere un attimo. Una marca affidabilissima, va benissimo. Comunque bello, bello, veramente bello, guarda. Vabbè, dai. Riprendete voi, dai, che voglio vedere il finale della gara, che ci mancano 700-800 metri per l'arrivo. Voglio ascoltare il finale perché devo aumentare il volume, dai. A dopo, dai, riprendi a dove. Dai, si è allontanato anche a me. Ma a me me l'hanno regalato. A me me l'ha regalato la Smart Tech, quella che fa le antenne. Avevamo a casa, è la casa costruttrice di televisioni. È quella che ha fatto lo Smart TV, infatti si chiama Smart Tech. È bellissimo. Va bene, bene, ci sentiamo dopo. Staccato, l'ho bypassato, l'ho messo diretto. Ehi, ieri ho istante stavo seguendo un film, non potevo intervenire, no? Però con il ricevitorino in camera sentivo l'audio di Natalino, pare fosse ieri sera, ieri notte. L'audio andava, saliva e scendeva, la modulazione, un po' saliva, un po' scendeva, un po' si apriva, un po' si chiudeva. Ho detto, che cavolo sta succedendo? Alla fine era il microfono o lo spezzone, Claudio? Non il microfono, infatti la prima volta ho dato un altro cassetto. Ho detto, usa questo, ma strano perché è nuovo. E invece niente, non era neanche il cavetto. Allora alla fine l'ho sostituito direttamente il microfono. Ho detto, così. Io ho dato il mio, che li uso sempre, non li tocco mai quelli, capito? Invece quando tu lo compri usato, te lo danno, per esempio mi ha dato Valerio, evidentemente lo usavano, lo muovevano spesso con l'interruttore, quindi si consumano, capito? Allora, per evitare, allora gli ho dato a provare, lui se lo prenderà, non è un problema con l'antarino. Quindi tu usati il mio, almeno sei sicuro che funziona. Io già mi arrancio, infatti l'ho bypassato e sta funzionando bypassato, poi appena trovo l'interruttore glielo sostituisco, è una cazzata, e si consumano quei, sono micro interruttori, capito, e si consumano. Sì, è un po' come, tu stai parlando del PTT o del PTT, sì. No, l'interruttore che c'è sotto il microfono, quello micro interruttore piccolino, che serve per aprire e chiudere l'amplificazione. Ah, in out, sì, me lo ricordo. Vabbè, l'importante è abbiate risolto. Poi appena lo sento, non ho avuto occasione di sentirlo, stamattina sono dovuto uscire a fare una commissione, un po' sul presto, se no arrivava il caldo. Cantonello si è dotato bene o sbaglio? Sì, si entra nella parte della radio che è perfetta, ma gli ho regalato un MB+5, è stato tempo d'alimentazione in diretta che mi aveva fatto Fabrizio, prende direttamente l'alimentazione, c'è il connettore a 8 diretto, prende l'alimentazione diretta, capito? Glielo regalato, tanto io non lo usavano, gliel'avevo promesso. A lui che piace quei tipi di microfoni 60 non le piace, se non avrei calcolato un 60, gli ho dato quello, riesce veramente molto molto bene, veramente molto bene sta uscendo Antonella. Sì, l'importante è che non si metta a toccare, a fare, a aprire, a mettere luci blu, già lo sa lui. Ma collino a fondo. Mia al cuoco, ma mi sembra già di sentirlo bene, molto bene. Spalviero 2, mi ha Spalviero 2. Telefono, un attimo. Via, è bene anche lì. Mi stavo guardando un pedale per mettermi il coso a pedale, per far funzionare il microfono col pedale. Mamma mia, dai. Ma lasciamo stare così, non c'è il microfono a pedale. Però si fa quando fai un bel collegamento, devi scrivere, una radina futti. È bello così. Già va bene. Ciao Fabio, l'altro Roberto Quadrato. Sono ancora pesato. Bello in ferro, è molto bello. E la tempo. E io me lo volevo fare. Però come da dietro si può attaccare, qualche attacco c'è dietro per attaccare il pedale. Dovrebbe andare, mi pare, in quel secondo connettore PCA6. Dove si attacca l'amplificatore, lì c'è il PTT, l'LC, lì dovrebbe andare. A Marco bisognerebbe chiederlo, che lui lo usava. Marco Scorpio deve chiedere. Sì, e chiedere a Marco, a vedere. Dovrebbe essere facile da fare, dai. Non è un problema. Infatti. Ti sei alzato adesso? Ah, adesso ti sei alzato. No, stavo facendo cosa, adesso sono al computer, stavo guardando questo passo qua, a pedale, a pizza. però non ne ho mai usato io, volevo sapere come si fa l'attacco. Non so, bisogna chiedere a chi fa questi esperimenti. E infatti molto poco, penso che Gabriele ci aiuta. Sarà come anche lo sindaco di Boa che ne farà da Robacco. Fisso che si dopo subire i cose che si è contro a capo. Allora, non so il tavolo, anche il letto, il telone si è portato, si è tutto rudurato. E si è da due con la legna. Allora, baule si chiama. Fisso adesso. Chiamo Brisito adesso. Mamma Brisito, è spinaccio. Mamma mia. Però non volevo cambiare strada io. Non volevo andare qua che cambiamo strada. Per carità. Come mi salutava il gatto Cicco, aveva il motore della macchina. Qua ripeti chi vi raccontano chi mi era di più belli. Il tuo pindaccio, io quando lo prego penso qua che cambiamo strada. Tanto quando mi salutava si trovava il motore della macchina. Ma mi bisogna ridere, asciughe. E se no due volte si è buccato. Si vedeva tutto bene, ciao, come stai? Tutto bene? Non sei più passato in comune, sono impegnato. Ci vediamo, arrivederci. Senti, si va a prendere la macchina e vedi come buccati. Aspetta un attimo, arrivo a allacciare la collana. Vedi, allaccia. Aspetta che vedo, infatti. Che siete? Quanti siete? Chi c'è? Chi è rientrato? Anche voi? Con chi sei? 76. Stasera pizza a domicilio, il mio spacciatore di pizza personale che tu ben conosci. Oh, io lo conosco, ci sono già stato, intanto ci sentiamo per telefono. Ho detto mille volte, passa a trovarmi, conosce i servizi, non è mai passato. Salutamelo comunque, sempre più grasso. Lui è a dieta, mi. È a dieta, stavo facendo a dieta perché per rimediare un pochino. E troppo, troppo, poi le ragazze non cercano più, capito? Natalino, qua stai usando? Stai usando quello? Uno di quelli da Parma sto usando. Ah, così, tanto per cambiare. E vabbè, io sto usando per la cronaca, mamma sta reclamando il caffè, adesso faccio il caffè per me e per lei. Il 7009 è il microfonino famoso KPO, quello lì. E qualche watt di troppo, adesso lo stacco perché non serve. Speravo in un po' di propagazione, però non è come l'altra sera, Non è come l'altra sera. Riprendi, Claudio. No, è molto più bassa la propagazione. Cioè, guarda, l'aria accesa in 10 metri, l'altra sera in 10 metri c'era il mondo, adesso c'è sì, qualche brasiliano, Spagna, Portogallo. Tedeschi, però l'altra sera era micidiale. Non lo sentivo, sta col microfono Natalino Gasbru, ma non lo senti, sto usando il microfono di tavola. È cocuomane questo Marco, non lo vedi che è cocuomane? Ma perché? Manco dallo scatto si è accorto che. Ma non piacerebbe, stai usando il microfono, perché cazzo, non è così, non è un microfono normale. Già esce bene, ma questo si vede, si sente l'amplificazione. Dimmi Claudio, ero in cucina, ho acceso la macchina del caffè. Non senti una carina, sto usando lo 60, il microfono normale secondo te è quello. No, sai cos'è? Che non mi rendo conto perché c'ho il volume al minimo sindacale. Qua il minimo è a 2, c'ha gli scatti, no? E quindi non, adesso l'ho messo, l'ho alzato, vediamo com'è, l'ho messo con un ascolto normale. E vai Natalì, ma non va. Mi dice la concetta, lo sta disturbando. Natalì. La colpa è buona, sono sempre io. Sentito? Sì, già ciocca. Concetta c'è, è più distante e si sente bella forte. Se tu lo disturbi, Concetta, lascialo stare. Vai, se devi uscire, vai, prendi il sole. Lui lascialo stare lì con Gurti. Non mi vuoi dare in pazzi, Cazzera. Allora, piglio questo nervio che mi ha dato un branco, mi dico un po' per la china, vedi tutto. Lasciala stare, lasciala stare. Vedi quella modulazione che c'è adesso. Sì, ieri poi era come se avesse un falso contatto, sentivo questa specie di scarichetta a mezzo passaggio, no? E poi credo, almeno se non era un difetto del ricevitore mio, sentivo l'audio che si alzava e si abbassava, un fading, si alzava e si abbassava, ho detto ma invece no, era adesso è di lusso, è un bijou. Tu come che si dice? Tutta una sagubba? No, tutto il microfono non stava andando. Non stava andando. Ho detto, ho staccato il mio ieri sera stesso. Ho detto, ma non ti ha portato il mio così. Ma venivo che tutte le tracche. Il mio, sono sicuro che va bene perché non mi ha mai creato problemi, capito? Infatti sto uscendo benissimo. Ma lo sa, per fare il capo del microfono non ci vogliono neanche concessioni, connessioni né niente. Cos'è una cosa? Perché devi fare pin to pin e vedrai che i contatti sono quelli, non devi misurare nulla. Ma poi mi posso una brunga e no, chi non finì più, così ne rugavo il ricciurato, me lo tengo di scorta. Sì, tutto prima, certo, sono uguali. Allora, la tappa l'ha vinta Claudio, Simon Yates, e la nuova maglia rosa è di Carapaz, perché la vecchia maglia rosa è arrivata a 4 minuti e mezzo, è arrivata oggi. Poi abbiamo italiani, Nibali che è all'ottavo posto con 2 minuti e 58 secondi di ritardo. ha fatto una bella gara comunque, ha tentato di vincere la tappa ma non ce l'ha fatta. Ti prendi Claudio, ciao Marco e ciao Natalino. Visto, non ce l'ha fatta, pazienza, e cosa ci vuoi fare? Però sei entrato dallo meno stesso. Vai Marco. Ciao Giulio, ben sentito. Segnale tuo è prossimo al 9, quindi sta arrivando un watt. Ricordati che se solo volessi, lì si può aumentare molto la qualità della modulazione. Il solito trimmer della M e in più togliere quella spugnetta dentro che è eccessivamente pressata nel mic e la qualità migliorerebbe molto molto molto, però già così discreto, dai, già lo sai, quei microfoni a saponetta non sono eccezionali, però già andrà bene. Ma almeno due ne poteva mettere di watt, arriva a basso qua, arriva a 9. Perché eccetera eccetera, no, ma io no, lo lascio così com'è, tanto mi sento lo stesso, no, non c'è problema, con questa potenza e con questo microfono così a saponetta, non c'è problema, va bene lo stesso. Sì, sì, sì, no, perché io devo focarsi sulla frequenza, Marco, è per quello che ho dato il risultato della tappa odierna, tutto lì, era con Claudio e anche con, no, con un altro, chi c'era, Antonello c'era anche. Vai, Natali. Ciao Giulio, però potresti aumentare almeno a un watt, se no arrivi 9,5 qua stai arrivando. Non va bene 9,5, a voglia, no? Cazzo, c'è ancora un watt, 9,5. Se faccio così qualcosina in più esce, vedi? Adesso sono 2 watt, 3 watt più o meno. Rimetto come la prima e siamo a posto. Già mi sento, non c'è problema. Sono come Gianfranco io, con la mania della potenza bassissima. Sono come lui, abbiamo la stessa idea, Natali. Cappa. No, la radio è che bassa bassa, capito là. E il segnale va bene, 9,5 con un watt va benissimo. Ok, lo so, si può, perché è a metà. La qualità della radio è bassa perché è a metà, è regolata a 31, mentre potrebbe arrivare addirittura a 63, perlomeno così dice il metodo di istruzione. Comunque ho anche provato e in effetti è così. Mi sta segnando in questo momento uno di stazionali e mi sta segnando sul display e va bene così. Se invece aumento allora arrivo a 1,1 di stazionali, ma rimango così e non se ne parla più. Vai Claudio. No, ma va bene, lascia stare così, io voglio che va bene, alla grande. Cioè, intanto non porto, non so se l'avete visto voi. Se vuoi entrare, entra, invece metto la portante. Avanti Marco. Sì, ma forse era qualcuno che stava accordando tentando di breccare, vediamo, avanti sul 10. Sì, sì, sì. Io vi ho garruzzo, ma poco mi piace, perché non ce ne sono altri canali da accordare, devi accordare quando sta parlando uno. Non ti ho fischiato poco fa, allora siamo aperti. E prendi Natali. Se vuole entrare entri, e se no si sia, cosa vuoi che ti dica? Comunque mangiamo un bel gelato, vai. A dopo, ciao, riprendi su pure, riprendi qua. Prendi più tardi, lasciando pure. Ho sbagliato, non sono stato quello che fa. Ti prendo una giuscia, mi dice scusare, ho gli allucinanti. Però è da fare, ma se domani mi lascio l'erba. Oppure stasera al fresco, se vediamo, forse stasera. Verso le 7. Almeno è tutto pulito, è ordinato. Se uscì domani non ho fatto nulla. Domani mi dedico al bagnetto.